Come ben sapete, ogni tanto porto anche qualche disco, magari in vinile, e questo è della Candid, del grande Booker Little. Il titolo è Out Front, insieme a lui Max Roach ed Eric Dolphy. Bastano questi nomi già per portare un grande disco nella playlist odierna. È un capolavoro questo disco, è uno dei dischi più belli che ho in assoluto. Sai, quando ci sarà il bombardamento atomico, sperando che le redazioni non fermino anche i giradischi, io nel bunker è uno di quei dischi che mi porto dietro. Questo. Capisco. Ci permetterà il collegamento telefonico con Daniele Cecchini per dare breve presentazione sintetica per il Ravenna Jazz all'interno del programma Crossroad. A tra poco. Con un minutino di ritardo, ma ci saprà scusare, alle 12:11 minuti, beh, anche non solo l'orecchio e la playlist vogliono la loro parte, ma anche l'occhio vuole la sua parte, quindi non solo per un buon ascolto, ma anche per un good looking, abbiamo Daniele Cecchini qua in diretta telefonica con noi. Bentornato Daniele. Ciao Willy, grazie di ospitarmi di nuovo, e meno male che siamo solo a speakeraggio e non ci si vede in viso. No. Perché gli anni passano. Mi rendo conto, come no, però sai, tu sei oltre che di gusto anche l'uomo immagine per quanto riguarda tutto ciò, e hai un pubblico, hai una fan base nutritissima che chiede di te, e allora così ti portiamo in diretta ogni tanto per avere, esatto, qualche informazione anche al di fuori della nostra città. In questo caso è Crossroad, è Ravenna, e parte quella settimana che è un po' un cuore, se vogliamo così definirlo, all'interno dell'estesissimo Crossroad. Ci puoi dire qualcosa per darne sintetica presentazione? Tra l'altro mi pare inizi proprio questa sera, Daniele. Questa sera, esattamente, quindi siamo proprio nel momento di massimo impegno e stress, emozione e tutto quanto. Beh, innanzitutto sì, come tu dicevi, è un punto culminante del cartellone di Crossroads, ma quello che inizia stasera, Ravenna Jazz, è innanzitutto anche un festival completamente autonomo, che poi nei vari spostamenti di periodo nell'anno che ha avuto nel corso del tempo, trovandosi adesso nel mese di maggio, mentre realizziamo anche Crossroads, da un punto di vista della comunicazione, vuol dire, li sommiamo, si aiutano, si fanno forza l'una con l'altro, ma Ravenna rimane comunque una manifestazione con una lunghissima storia, perché quest'anno ne fa 51, che non vorrei dire, ma è quasi mio coetaneo, e quindi va come festival autonoma. Sì, io già da questa sera, tra l'altro, ho notato che c'è una grande partecipazione per quanto riguarda progetti per omaggiare, anche se non siamo meramente legati al jazz, progetti che hanno un aspetto legato a dei workshop, collaborazioni che magari non sono così edite o così frequenti. Per dire, l'apertura è un omaggio a Elvis Presley, Daniele. Esatto, infatti come tu dicevi ci sono molti omaggi, quindi parliamo di repertori eseguiti, sì, che vanno a pescare appunto in generi musiche anche lontane dal jazz, ma il discorso è che chiaramente poi vengono completamente, per dire, riappropriate dai musicisti che le eseguiscono e riportate nella loro lingua musicale. Insomma, il jazz, anche quello che noi oggi ascoltiamo e riteniamo proprio il jazz puro, immacolato, senza altri aggettivi, che può essere Ella Fitzgerald degli anni 50, in verità, ascoltato con le orecchie della sua epoca, anche lì pescavano pesantemente nella musica pop, come dire, swingandola e facendoci sopra tante novità. Ma il jazz, vuol dire, si è sempre nutrito abbondantemente di altre musiche, tirando le nette materiali, lavorando sull'armonia, cambiandone il ritmo, personalizzandolo. Mm. E infatti questa sera, come tu accennavi, il primo concerto che andrà su questa linea, quello di inaugurazione, lavorerà sulle musiche di Elvis Presley, sarà eseguito dall'Italian Jazz Orchestra, quindi abbiamo un contesto di jazz orchestrale, tra l'altro un organico molto ampio, molto particolare, perché è praticamente una big band completa, con in più degli archi, e quindi è un contesto di jazz sinfonico vero e proprio. Con John DeLeo, sì, alla voce. Questa voce è un guest particolare per l'abbinamento con Elvis Presley, è la prima, esatto, sensazione, sì, che mi è venuta a mente, fra l'altro. Ma John DeLeo credo sia particolare in qualunque abbinamento, è una, certo, voce camaleontica, un personaggio magnetico, io l'ho sentito, dire, esibirsi da contesti di avanguardia anche a contesti di standard jazz. In ogni caso, quando, vuol dire, trova la sua strada personale rispetto al repertorio, è una voce incredibile. Sì, unica e speciale, lo ricordiamo nei Quinto Rigo, ecco, tanto per citarne in alcune formazioni. Anonima Armonisti, sabato 4 maggio, a proposito di realtà originali, al Lido Adriano, sarà, perché non è solo nel Teatro Alighieri per quanto riguarda la città di Ravenna, è il secondo comune più esteso dopo Roma, ricordo, tra l'altro. Esattamente, arriviamo, sì, al Lido Adriano sul mare. Non so neanche quante decine di frazioni a, sì, Ravenna, tantissime. Talmente tante che noi chiamiamo le frazioni come se fossero dei comuni, di Adriano, che in verità è una frazione. Sì, per dirti, Sant'Alberto, che è Ferrara praticamente, è comune di Ravenna. Non è un, è un quartiere, è una località. Ecco. Prima o poi scopriremo che anche Bologna è una frazione di Ravenna. Ah, forza di dai e dai, succederà anche questo. Workshop di canto con John DeLeo, domenica 5 maggio al Centro Musiche. Siamo a Ravenna, in questo caso vi ho detto. Esatto, tanti... ricordiamo che i workshop sono, per quanto che quello di John DeLeo sia appunto fatto da un cantante, e anche l'altro workshop, il secondo con Petra Magoni, sì, sono comunque aperti a qualunque tipo di musicista, quindi sono di musica d'assieme, di anche come esperienza, dire, personale nel rapporto con l'artista, quindi non sono monotematici, rivolti solo ai cantanti, questi workshop. Allora, per quanto riguarda Petra Magoni, fra l'altro, ho selezionato un lavoro con Ferruccio Spinetti al contrabbasso, che in questo caso sarà Piangi Pane, ed è martedì 7 maggio. Prima dello stacco musicale, ti passo Alfredo, così fai due, sì, chiacchiere. Buongiorno Daniele. Eccolo qua. Ciao Alfredo, ben trovato. Ben trovato anche te, ovviamente. Già prima vorrei ricordare che su Elvis Presley sarà anche Rita Marcotulli, sì, questa esatto, colonna del jazz italiano al, sì, pianoforte, sì. Ed è curioso come il re del rock bianco verrà interpretato da questi musicisti sugli incroci Crossroads per eccellenza. No, volevo chiederti una cosa, mi sembra che sia un festival dedicato moltissimo alla voce, al canto, ai vocalist. Sì, assolutamente, tra l'altro non solo Ravenna, ma quest'anno proprio l'intero Crossroads ha una percentuale, una quantità enorme di cantanti. Ti abbiamo perso. Ah, eccomi, no. Diciamo, vai, vai. Abbiamo una quantità notevole di cantanti. Su Ravenna, jazz, per esempio, Pietra Magoni, che si esibirà al Teatro Sociale, che è un altro di questi gioielli nelle frazioni ravennate che quasi fanno comune, e questo è a Piangipane. Dove danno i cappelletti tra il primo e il secondo? Esattamente, credo gli unici cappelletti che sono più buoni di quelli che fa la mamma mia, e mi scuserà la mamma. Ma ecco, il Teatro Sociale è appunto una location che noi abbiamo battezzato come il teatro perfetto per fare cantanti e voci. Infatti, oltre a Pietra Magoni con Musica Nuda il 7 maggio, ci sarà anche Jesmeia Horn, questa cantante texana, dire, che sta rinnovando i fasti, diciamo, del canto jazz afroamericano, e in questo caso proprio di jazz effettivamente puro, senza contaminazione. Questo è proprio standard, la vita del canto, proprio gli standard. E quindi direi di ascoltare un po' di musica con Pietra Magoni, poi rientriamo subito e procediamo, andiamo verso la conclusione, che sarà, da quel che leggo, lunedì 13 maggio, anche qui con l'orchestra Pazzi di Jazz, come ogni edizione, per il Crossroad e il Ravenna Jazz in particolare. A tra poco, puoi restare 2 minuti in linea? Sì. Romeo loved Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give me fever. When we kiss it, fever with that flame in you. Fever, oh, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for you. A proposito di interpretazioni di standard, questo ovviamente accompagnato da applausi, avrete capito che trattasi di Fever, interpretata da Pietra Magoni. Ci sei, Daniele? Eccolo, che è caduta la linea. Non c'è. Ma noi ci riproviamo. With his kisses, fever when he holds me tight. Mrs. Daddy, won't you treat him right? Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it fair and have a sense of fever. When they kiss you, fever if you. Rifacciamo, a proposito di standard, Pietra Magoni con Fever, e nuovamente in diretta, così non faccio neanche la prova fuori onda, con Daniele Cecchini. Ci sei? Esatto. Sì, ci sono, mi sono ascoltato intanto Fever, esatto. Okay. Allora procedo, perché come ho detto arriviamo fino all'inizio della settimana successiva, ricordando che per il Teatro Alighieri alle ore 21, Abdullah Ibrahim solo giovedì 9 maggio, lui musicista sudafricano, un musicista storico nelle sue interpretazioni, anche nelle capacità artistiche, con un'espressione molto importante. È un bel colpo quello di Abdullah Ibrahim, Daniele. Assolutamente, perché veleggia per onorevolissimi 90 anni senza, infatti, perdere un colpo. Ci vorrei arrivare io. E un artista appunto che ha segnato quelle che ancora oggi vengono ascoltate, venerate come i periodi mitici del jazz moderno degli anni 60, quando si esibiva ancora sotto l'antico nome, sotto lo pseudonimo di Dollar Brand. È vero. E quindi bisogna, quindi, per farsi un inquadramento anche discografico, cercarlo come Abdullah Ibrahim e anche come Dollar Brand. E oggi, come dire, ha davvero distillato la sua musica, tirandone fuori la componente più africana, quella di base del suo paese d'origine, perché un ritorno alle origini. È vero che ha raggiunto il successo nella scena statunitense degli anni 60, ma poi è un musicista che non ha mai, come dire, staccato il ponte, è tornato in Sudafrica, e nel suo piano solo è quello che si sente. Io vorrei citare altri due musicisti. Possiamo ballare col Sam Paglia Quintet, sempre Lido Driano, venerdì 10 maggio. Avete fatto bene a portarlo in Riva al Mare, perché magari ha un motivo, sì, d'aggregazione questo è proprio un concerto da divertirsi senza scrupoli. Il concerto di Bugaloo, divertentissimo. E tra l'altro, appunto, al Cisim di Lido Driano, di cui parlavamo anche prima, è tecnicamente un luogo di ritrovo giovanile come locale. Sì, sì. E concludiamo, come ho detto, con Pazzi di Jazz, anticipato da un paio di date: Alessandro Scala Quintet, che è sabato 11 maggio, domenica 12 maggio Jazz Meia Horde, di cui poi parleremo. Abbiamo un altro Jazz Live prima di arrivare a questo, avremo modo di darne approfondimento. Intanto, in maniera sintetica, abbiamo fatto così una rassegna nella rassegna del Ravenna Jazz. Grazie a Daniele Cecchini. Bene. Grazie a voi. Io ti auguro una buona giornata, buon lavoro. Prima o poi riuscirai anche a riposarti, immagino. Ciao. Sì, più o meno ad ottobre. Tra la mezzanotte e mezzanotte 5 minuti faccio un pisolino di 5 minuti e poi riparto. Bene. Va bene, buon lavoro allora. Grazie Daniele, ciao. Grazie. Ciao. Puntuali, 12:25 minuti, siamo giunti al termine. Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Vi lasciamo con Abdullah Ibrahim, The Balance, ultimo brano in playlist, augurandovi un buon ascolto, mi raccomando, e un buon jazz. Un caro saluto da William Piane e da Alfredo Pasquale. Ciao a tutti e buon weekend. Buon weekend.